Avrei da raccontare del mio tempo com'è andato dentro una canzone, puoi soltanto fare un cenno come il saluto stanco di quelli che ho incontrato, tornare lenti dai campi coi raccolti dell'autunno. Le facce dei bambini di una città in festa, a vendere per pochi soldi frutta e torte di riso, vicino a donne antiche con il fazzoletto in testa ed una luce limpida negli occhi e sopra il viso. Ho camminato lungo fiumi e lungo strade, ho attraversato i campi verdi e le contrade ed ho scolpito volti dentro la memoria. Ci ho costruito sopra i pezzi di una storia, la luce bianca dei lampioni nella nebbia, le mani strette per l'amore o per la rabbia, dentro al silenzio di una terra desolata, e per compagna la notte stellata. Avrei da raccontare di villaggi abbandonati e muri e tetti e corpi che non sono mai crollati, che hanno nascosto tutte le speranze nella terra e vivono fuggendo dal ricordo di una guerra. La luce bianca dei lampioni nella nebbia, le mani aperte per l'amore o per la rabbia, lo sguardo perso su una terra sconfinata, e per compagna la notte stellata, sogni scanditi con il ritmo dei miei passi che ricadevano scomposti su se stessi, come le pagine di un libro quando l'aria diventa un vento freddo e forte che si infuria, come le pagine di un libro quando l'aria diventa un vento freddo e forte che si infuria, come le pagine di un libro quando l'aria diventa un vento freddo e forte che si infuria.